Storie italiane. Raperonzolo. Molto molto tempo fa vi erano un giovane uomo e una donna che vivevano nella loro piccola casa. Non avevano bambini, ma desideravano una figlia. Da una piccola finestra della casa potevano vedere un bellissimo giardino. Era pieno di bei fiori e piante. Il giardino era circondato da un alto muro e nessuno osava entrarci, poiché apparteneva ad una strega dai grandi poteri di cui tutti avevano paura. Un giorno la donna alla finestra vide una cresciuta e rigogliosa pianta di lattuga. Sembrava così fresca e verde che volle mangiarne un po'. Perciò disse a suo marito: «Il mio più grande desiderio è mangiare un po' di quella lattuga». «Ma essa appartiene alla strega!» «Oh, ma io voglio davvero mangiarla! Non mangerò nient'altro! Oh, mio caro, mangerò solo la lattuga!» L'uomo si preoccupò e cominciò a pensare a come prendere la lattuga. Il desiderio aumentava giorno dopo giorno e, senza sapere come prenderne un po', la moglie si ammalò gravemente. Suo marito trovò per lei tante altre cose da mangiare, ma lei rifiutò tutto. Voleva solo la lattuga. Il marito era spaventato e una notte decise di prendere la lattuga. «Non temere, mia cara. Ti porterò un po' di lattuga». «Ma è davvero rischioso, tesoro!» «Non lascerò perire mia moglie. Perciò prenderò la lattuga. A qualsiasi costo, non importa quale». Perciò, mentre si faceva buio, raccolse tutto il proprio coraggio e scavalcò l'enorme muro, arrivando al giardino della strega. In fretta e furia afferrò poi una manciata di lattuga e la portò dalla moglie. Ella la mangiò con avidità e si sentì un poco meglio, ma una sola manciata non bastava. Era così buona che il suo desiderio di mangiare lattuga crebbe il triplo. Il giorno dopo, l'uomo scavalcò ancora una volta il muro quando si fece buio. Ma questa volta vide la strega ad aspettarlo. «Come osi introdurti nel mio giardino come un ladro e rubare la mia lattuga? Pagherai per questo!» «Oh, ti prego, perdonami! Mia moglie aspetta un bambino e ha visto la tua lattuga dalla nostra finestra! Desiderava tanto mangiarne un po'! E lei sarebbe morta se non l'avesse avuta!» «Perché non mi hai chiesto il permesso?» «Avevo paura di te! Credevo non mi avresti mai dato il permesso!» «Se questa è la verità, ti consentirò di prenderne quanta ne vorrai, ma ad una sola condizione. Dovrai darmi il bambino che tua moglie metterà al mondo». In preda alla paura, l'uomo accettò il patto. Il tempo passò e il piccolo nacque. Era una bambina. Erano così felici. Presto la strega arrivò. Diede alla bambina il nome Raperonzolo e se la portò via, lasciando i suoi genitori nella totale sofferenza. La strega la rinchiuse in una torre che giaceva molto lontano nella foresta e non c'erano né porte né scale, ma solo una piccola, minuscola finestra in cima. Raperonzolo crebbe lì dentro, pensando che la strega fosse la sua vera madre. Man mano che cresceva, i suoi capelli dorati diventavano sempre più lunghi. La strega scoprì che i capelli di Raperonzolo avevano magici poteri, perciò non glieli avrebbe mai tagliati. Quando la strega voleva rientrare, dal basso la chiamava: Raperonzolo! Oh, Raperonzolo! Lascia scendere i tuoi capelli! La tua cara madre è qui! Raperonzolo aveva splendidi e lunghi capelli, raffinati come oro. Quando udiva la voce della strega, lasciava cadere i suoi capelli dalla finestra fino al terreno. La strega si arrampicava su di essi fino ad arrivare in cima. Raperonzolo cresceva e desiderava uscire da quella casa ed esplorare il mondo esterno. Ma la strega le raccontava che là fuori era crudele e ostile, che le persone le avrebbero fatto del male. Ti ho portata qui per tenerti al sicuro. Non appena Raperonzolo compì 16 anni, volle uscire per festeggiare. Madre? Sì? Ho pensato a lungo ad una cosa. A che cosa? Ho 16 anni e credo di essere grande abbastanza per poter uscire da questa torre. Ma che dici? Impossibile! Ho letto tanto riguardo alla città e sembra davvero magnifica. Le persone, il cibo, le luci e tutto il resto. No! Ti ho già detto quanto sia crudele il mondo là fuori. Sei al sicuro qui. Per favore, madre, ci sono così tante cose fantastiche che potrei fare, così tanto da imparare, tanto da vedere. Ho detto di no, Raperonzolo. Posso badare a me stessa là fuori. Sono grande abbastanza. Ma guardati, sei maldestra. Non voglio che le persone si approfittino di te. Non è vero. Non lascerai mai questa torre. Mai! Ricordati che ti voglio bene. Vorrei vedere la città almeno per una volta nella vita. Desidero solo che qualcuno mi porti lì. Passarono uno o due anni. Un giorno un principe, cavalcando per la foresta, udì qualcuno cantare. Mentre si avvicinava alla torre, udì una canzone tanto meravigliosa che si fermò ad ascoltarla. Era Raperonzolo, che trascorreva il suo tempo cantando con la sua dolce voce. Il principe voleva raggiungerla e cercò una porta nella torre, ma non la trovò. Ritornò verso casa. Ma la canzone gli aveva toccato il cuore e perciò tornò nella foresta ogni giorno per ascoltarla. Un giorno, stando appoggiato dietro ad un albero, vide la strega arrivare e la sentì dire: Raperonzolo! Oh, Raperonzolo! Lascia scendere i tuoi capelli! La tua cara madre è qui! Quindi Raperonzolo lasciò cadere la sua lunga treccia di capelli d'oro e la strega vi si arrampicò sopra. Wow! Se quella è la scala della torre, dovrei tentare anch'io la fortuna con quella ragazza. E il giorno seguente, proprio quando iniziava a fare buio, egli arrivò ai piedi della torre e annunciò: Raperonzolo! Oh, Raperonzolo! Lascia scendere i tuoi capelli! La tua cara madre è qui! I capelli scesero. Mua! E il principe si arrampicò. All'inizio Raperonzolo fu davvero spaventata quando vide un uomo come non ne aveva mai visti prima. Chi sei? Sono il principe. E come sei arrivato qui? Il principe le disse che il suo cuore era stato così toccato dal suo canto che non avrebbe avuto pace finché non avesse visto la persona che cantava. Raperonzolo smise di avere paura e il principe fu ammaliato dalla sua bellezza. Le chiese: Vuoi sposarmi, Raperonzolo? Vuoi essere mia moglie? Raperonzolo pensò: Lui tiene più a me di quanto non faccia mia madre. Il principe mi porterebbe in città e mi mostrerebbe il mondo! Rispose di sì, posando la mano su quella del principe. Però io non so come scendere. Se lascio cadere i miei capelli, come potrò uscire? Va bene, Raperonzolo, penserò a qualcosa e tornerò domani per portarti via da qui. Mentre il principe scendeva dalla torre, la strega lo vide e capì che stava succedendo qualcosa. Raperonzolo! Oh, Raperonzolo! Lascia scendere i tuoi capelli! La tua cara madre è qui! Come osi? Tenti di scappare da qui! Ti ho nutrita! Ti ho cresciuta! Come puoi pensare di tradirmi? Pagherai per questo! In preda alla rabbia, afferrò i bei capelli dorati di Raperonzolo e un paio di forbici e zac zac li tagliò. Senza pietà, spedì Raperonzolo in un lontano deserto a soffrire da sola. La sera seguente, la strega attese il principe e quando arrivò annunciò: Raperonzolo! Oh, Raperonzolo! Lascia scendere i tuoi capelli! La malefica strega lasciò calare i capelli dorati di Raperonzolo. Il principe andò su, ma in cima, invece della sua amata e dolce Raperonzolo, trovò la strega a rivolgergli il suo sguardo maligno. Sei venuto per la tua cara Raperonzolo? Ma quel bell'uccellino, come vedi, non è più nel suo nido. L'hai perduta e non la rivedrai mai più. La strega lo spinse giù dalla torre e gli cadde su delle spine che infilzarono i suoi occhi, accecandolo. Senza più riuscire a vedere nulla, vagabondò per la foresta, mangiando erba e radici. Vagò miseramente per alcuni anni. Finalmente raggiunse il deserto, in cui poté udire una bellissima voce che trovò essergli familiare. Si avvicinò e disse: Raperonzolo, sei tu? Raperonzolo lo riconobbe e iniziò a piangere. Due delle sue lacrime caddero negli occhi di lui, i quali si rigenerarono di nuovo, e il principe magicamente guarì. Tornarono al regno del principe, dove venne accolto con gioia. Il re e la regina furono felici di ritrovare il loro principe. Il popolo del regno scoprì che la ragazza era colei che era stata catturata dalla strega. Così Raperonzolo andò incontro ai suoi veri genitori e li abbracciò. Le raccontarono che la strega era ormai morta e che erano davvero felici di vedere che bella fanciulla fosse diventata. La coppia decise di sposarsi. Il re annunciò il loro matrimonio con una grande festa per tutto il reame. Il regno era illuminato di luci e felicità. C'erano musica e danze. E vissero felici e contenti.